Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi, il tema di questa giornata economico-finanziaria. Allora, avete sentito dai nostri GR24 che il Presidente del Consiglio, ascolteremo adesso anche un pezzo del passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio Conte, ha annunciato uno scostamento, poi lo ha confermato anche il Ministro Gualtieri, dal deficit di 7 miliardi e mezzo. In realtà sono tecnicamente 6 miliardi 350 milioni in termini di maggiore indebitamento, e Conte ha detto l'Unione Europea comprenderà, non c'è nessun salto nel buio, ma c'è la piena sensibilità della Commissione Europea a comprendere l'emergenza che stiamo attraversando. Questo per le prime misure, perché domani appunto ci attendiamo anche la seconda fase delle misure tampone. È il caso di usare questo termine, perché nessuno si illude, lo dico in maniera molto chiara, che possono bastare questi soldi. Nel frattempo la situazione sulle borse, mettiamola così, non è delle migliori, anche se adesso l'America sta un pochino correggendo. Meno 1,40% Milano, meno 1,70% Parigi, meno 1,30% Francoforte, Londra perde l'1,80%, Dow Jones meno 2% in questo momento, quindi l'effetto taglio dei tassi della Fed è durato molto poco, onestamente. C'è qualche titolo a Milano che è anche in positivo: Leonardo più 1,40, Exor più 1,20, Fineco più 0,70, Recordati più 0,1%. E poi Juventus meno 6,80, Ferragamo meno 5,40, Ubi meno 5,40, Unipol meno 4,90, Saipem meno 4,80, Azimut meno 4,70, Banco BPM meno 4,40, Telecom meno 4%. Mediobanca perde il 3,80, Amplifon pure, Generali 3,60, Intesa 3,5% di calo, Biper pure, Prismian, mi fermo con chi perde più del 3%, Prismian il 3,1%. Molti mi stanno scrivendo di quanto riporta anche il sito Sole 24 Ore che forse il paziente, il focolaio potrebbe essere tedesco, nel senso che c'è il sospetto forte che ben prima di quando sia stato comunicato dalle autorità cinesi un contagiato tedesco abbia rappresentato il focolaio. Vedremo. Non mi va di commentare notizie ancora non confermate. Faccio notare che sono saliti a 349 i casi di coronavirus in Germania, 87 nuovi contagi. Il land più colpito resta la Vestfalia, Nordrhein-Westfalia, 175 casi, poi Baden-Württemberg 65, Baviera con 52, Berlino 9. È entrato in Europa più volte, potrebbe essere quello isolato in gennaio in Germania, a Monaco, il focolaio europeo del SARS-CoV-2. Adesso vedo un ultimo aggiornamento, sono più di 400 in Germania, adesso non riesco a dare gli aggiornamenti minuto per minuto. In Francia attendiamo notizie, però al momento sono 377. Ora, la statistica si fa anche in questo modo: sostanzialmente Francia e Germania sono al livello in cui eravamo noi lo scorso sostanzialmente 26 febbraio, quindi mercoledì scorso. Questo lo dico perché è importante anche guardare la progressione degli altri paesi. Qualcuno mi ha criticato perché ho detto è importante che il piano di gioco sia uguale per tutti. Sì, ribadisco quello che ho detto, cioè l'importante è che non resti l'Italia col cerino in mano, quando è ovvio che è importante contenere la diffusione, però è anche importante per il nostro paese non essere continuamente visti come gli untori. E a questo proposito ho una cosina anche per la mitica CNN. Oggi parleremo di cosa? Oggi, sempre alla luce di quello che sta capitando, da un lato del settore finanziario, avremo ospite Massimo Doris, numero 1 di Mediolanum, per capire innanzitutto quello che sta succedendo nei rapporti che hanno con la clientela, ma anche la previsione sui mercati, andamento borsistico, soprattutto anche se resta valida l'analisi che stanno facendo tutti i nostri ospiti in questi giorni: a differenza del 2008, questa crisi non è una crisi finanziaria, e quindi l'intervento delle banche centrali certo che può servire, ma non è così dirimente come ai tempi della crisi finanziaria, quando serviva a iniettare liquidità alle banche che non si fidavano tra di loro nel prestarsi soldi, per dirla in maniera un po' brutale. Qui la crisi è una crisi di supply chain, cioè della lato offerta, la catena della filiera della produzione su base mondiale, che rischia di bloccarsi se mancano alcuni componenti. Poi c'è una crisi di domanda. I voli, adesso darò alcuni dati anche sull'andamento delle compagnie aeree, dei voli previsti. L'Italia in questo momento, stando alle stime diffuse oggi, è la peggiore, con un 25% di calo stimato nell'andamento dei voli, peggio anche della Cina, meno 10% al momento le stime fatte in Gran Bretagna, per la Gran Bretagna, Francia e Germania. E qui il problema è che il whatever it takes deve essere un whatever it takes di carattere diverso, cioè lo so che sembra una battuta keynesiana, non può partire dalle banche centrali, deve partire da soldi e investimenti pubblici. Poi parleremo di questo, delle iniziative del governo, nella seconda ora del programma con il professor Piga. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito della 24 e la diretta su Facebook. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto, a dimostrazione che evidentemente tutto questo coordinamento a livello mondiale non c'è, ha chiesto che tutti i paesi facciano i test su chi ha i sintomi. Poi tra l'altro è arrivato Trump che dice il tasso di mortalità del 3,4% dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è falso. Meno male che Trump ha tutte queste garanzie e sicurezze. Faccio notare che però sarà pure falso, ma Trump sta valutando un'azione per gli americani senza sanità. Lì c'è un problema enorme, i tamponi costano tra i 1.500 e 2.000, anche più di $2.000, la sanità è privata in America, molti non hanno copertura, figuratevi se vanno a farsi fare i tamponi. La California nel frattempo, nonostante Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, Seattle ha chiuso le scuole per 15 giorni, l'Iran ha chiuso le scuole e gli atenei per un mese, le scuole chiuse fino al 31 marzo anche a New Delhi. Le perdite del settore aereo, dicevo, stimate dalla IATA sono tra i 60 e i 113 miliardi di dollari a seconda dell'impatto e della durata di questo coronavirus. Per quello che riguarda le compagnie aeree, poi darò anche altri dati. Ancora non ci sono nuove stime sul taglio del PIL per quello che riguarda l'Italia dopo le ultime date. Allora, sulle compagnie aeree, le perdite sono stimate in Italia che potrebbero arrivare a 5 miliardi di euro di ricavi in meno e un crollo dei passeggeri fino al 25% rispetto a oggi. È chiaro che se uno guarda quello che sta succedendo, il crollo dei passeggeri è superiore al 25%, ma diciamo sono gli scenari previsti. Se dovesse allargare il contagio, i danni potrebbero essere superiori anche ai 113 miliardi di dollari. Ho arrivata la notizia appunto dalla Francia, sono 377 i casi con altri due morti. L'Oise è la regione principale del contagio, e dicevo della CNN. Allora, io devo riservare alla CNN lo stesso trattamento che abbiamo riservato a Canal Plus due giorni fa, anche se qui non c'è una presa in giro di dubbio e cattivo gusto come il pizzaiolo pseudo italiano che sputava nella pizza. Però la CNN ha mandato in onda una mappa sulla diffusione del coronavirus, in cui sostanzialmente cioè, le frecce della diffusione partivano tutte dall'Italia, come se fosse l'Italia il focolaio mondiale. Allora, io dico, per favore, cioè, non giochiamo sporco, e ripeto l'appello, giochiamo in maniera corretta, devono stare molto attenti i paesi che in maniera un po' arrogante all'inizio hanno pensato di scaricare sull'Italia tutto l'elemento da untore. Vediamo cosa sta succedendo adesso in Germania e l'ipotesi che il caso fosse stato isolato per primo in Germania. è inutile continuare a fomentare provando a scaricare le colpe su altri. L'America deve stare molto attenta, ho dato dei dati sulle chiusure, e quindi io continuo a ribadire da questo punto di vista, e datemi di nuovo Fratelli d'Italia, che quest'estate, e vedrete che avremo un'iniziativa anche su questo, quest'estate e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, compriamo italiano, mangiamo italiano e restiamocene in Italia a fare le vacanze, così diamo un aiuto anche al nostro settore del turismo. La metto tutti i giorni, lo metterò tutti i giorni lì, no? Ogni volta che leggo qualcosa che è schifoso o comunque quantomeno fuorviante, non so chi gliel'abbia fatta quella tabella da CNN, ma da dove l'avete visto che tutti i casi di contagio partono dall'Italia, ci siamo dimenticati dove è nata sta roba, ma per favore, e anche Trump, che è sicuro che l'OMS sbagli, ha sempre ragione lui, ma adesso vediamo come farà la sanità americana, auguro tutto il bene del mondo agli Stati Uniti, a gestire, se dovesse mai gestire quello che stiamo gestendo noi, con una sanità privata in cui non esiste il tampone gratuito e quant'altro, per carità, però ognuno stia sulle sue cose, se posso permettermi. Oh, Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, buonasera. Buonasera. Io tengo l'inno se lei vuole, se no lo lei sì, vuole. Sì. Allora, vediamo di capire, vedo che alcuni mi stanno scrivendo che hanno già disdetto Minor, che vado in Sardegna, benissimo, ci tocca fare le vacanze in Italia perché non ci vogliono, guardi, questa può essere un'idea, invece io direi facciamo le vacanze in Italia, visto che è il settore che sicuramente è più penalizzato e rischia di non potersi sollevare, il settore del turismo, in buona parte, guardate che il calcolo è di 3 milioni di euro al giorno a Milano solo nel settore alberghiero oggi. Ecco, prenotate in Italia. Ma qual è il problema di prenotare in Italia? Fatemi capire. Allora, Doris, le faccio ascoltare cosa ha detto Gualtieri oggi. Ha detto: nel prossimo decreto sul coronavirus vi saranno anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. Così poi iniziamo a ragionare. Voi fate chiaramente più non prestiti alle imprese, ma ai privati, sì, e risparmio gestito. Però insomma, tutto si tiene, come dicono i francesi, anche nel mondo finanziario. Sentiamo Gualtieri. Ci saranno misure che ci consentiranno di sostenere i redditi, salvaguardare l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali. L'obiettivo è quello che nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus. Ci saranno misure di sostegno alle aziende dei territori e dei settori, anche al di fuori dei territori più colpiti, che subiscono l'impatto sia delle misure di contenimento del virus sia delle sue conseguenze dirette e indirette sull'economia. Quarto, ci sarà una misura per sostenere con sistema di garanzie una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. No, ma la tengo, mi piace tenere oggi Fratelli d'Italia. Massimo Doris, poco fa è arrivata la Banca Centrale Europea, ha appena detto che ha chiesto alle banche europee di aggiornare le proprie strategie d'emergenza per tenere in considerazione e affrontare il potenziale rischio pandemico. Ci si aspetta che i soggetti vigilati, quindi parla delle banche vigilate dalla BCE, rivedano i loro piani di continuità operativa, insomma, mettono in atto dei piani di emergenza come un po' stiamo facendo, sì, facendo tutti voi. Qui mi riferisco a Mediolanum, poi veniamo allo scenario. Sì. Intanto, come state affrontando? Immagino anche voi giorno per giorno avete migliaia di dipendenti in questo paese. Come state affrontando l'emergenza? Sì, li abbiamo concentrati tutti qui a Milano quindi 3, più per facile, la precisione. Con tutti. Da un certo punto di vista più facile, da un altro più difficile, perché essendo stati colpiti, come si sa, anche noi abbiamo avuto 3 casi, stanno tutti e 3 bene, per fortuna, però abbiamo dovuto isolare dei piani, chiudere degli uffici, eccetera. Ad ogni modo, ancora prima di questi casi ci eravamo subito attivati per, anche noi, per far lavorare le persone da casa. Attualmente abbiamo 800 dipendenti che lavorano da casa, più 500 collaboratori esterni, dipendenti, eccetera, anche loro che lavorano o dalle loro, nelle loro rispettive aziende di provenienza o a casa. Quindi diciamo che metà della forza lavoro sta lavorando a distanza. Quindi questa è stata la misura più importante che abbiamo preso. Ecco, dai clienti invece, ha ragione chi mi dice, guardi, che si chiama Lino Di Mameli, non Fratelli d'Italia, non volevo fare un favore alla Meloni, ci mancherebbe. I clienti invece che cosa vi stanno chiedendo? Ma i clienti in questo momento sono preoccupati ovviamente per gli investimenti, perché vedono le borse scendere e quindi chiedono cosa devo fare, come mi devo comportare. Quindi questa è la domanda principale. Se vogliamo posso dare anche subito la risposta. No, sui risparmi, immagino. Certo, sui risparmi, certo. E voi che risposta date? Allora, questa crisi, lei diceva prima, non è come l'altra. La Banca Centrale Europea aveva detto whatever it takes e risolto il problema, diciamo, iniettando molta liquidità sul mercato. Qui si tratta invece di imprese e la cosa è diversa. Ma ogni volta la crisi è diversa da quella precedente, ha delle ragioni diverse. Il punto è che il sistema a livello mondiale si mette in moto, e anche a livello privato, pubblico e privato, si mette in moto per risolverla questa crisi. E quindi anche questa crisi sarà risolta. Io non so in quanto tempo si risolverà e quanto profonda sarà. La certezza è che c'è e continuerà probabilmente ancora per un po', ma un'altra altrettanta certezza è che si uscirà da questa crisi. Quindi non bisogna avere panico, anzi, se la guardiamo da un punto di vista freddo e cinico degli investimenti, inizia un periodo molto buono per investire, o se ho già investito e ho della nuova liquidità per continuare ad investire un po' alla volta, diversificando in tutto il mondo, perché siccome si uscirà dalla crisi con certezza, i mercati prima o poi torneranno a crescere. Quindi ecco, scendono. Molti ascoltatori mi dicono, guardi che però io ci ho già perso parecchio in queste giornate di mercato, è vero, praticamente tutti i guadagni da inizio anno sono stati annullati, si è tornati a dicembre, se abbiamo visto gli indici, erano mercati che venivano già da livelli alti, però devo anche aggiungere. Sì, vero, idealmente sarebbe bene uscire e rientrare alla fine della crisi, il problema qui è sempre quando è la fine della crisi, hanno perso un 10%. Ecco Doris, a me qui interessa invece il suggerito da banchiere sull'aspetto che toccava prima, e cioè il whatever it takes. Allora, magari facciamo sentire l'originale Draghi, cosa capitò, lo ricorderei, molti di voi lo ricorderanno, quando c'era e si era scatenato un attacco al debito dell'area euro, grazie anche ai tedeschi e agli olandesi, e a un insieme di dichiarazioni, ma vediamo chi resta nell'euro. Partì l'attacco speculativo al debito greco, poi quello portoghese, poi quello spagnolo e poi si arrivò al pesce grande Italia, che Draghi, dopo aver rotto molte insistenze dei rappresentanti tedeschi in consiglio direttivo, disse guardate che io farò tutto quello che è necessario e credetemi sarà abbastanza per difendere l'euro, e a quel punto spiazzò tutti quelli che stavano scommettendo su una rottura dell'euro e che avevano posizioni di quel tipo, perché non vai contro una banca centrale. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Oggi alcuni economisti scrivono che il vero vantaggio, la vera forza, Doris, del whatever it takes di Draghi fu non mettere un limite, e cioè dire, attenzione a dire, il governo adesso sta prendendo provvedimenti di emergenza, deve iniziare a comunicare all'Europa lo scostamento, certo. Abbiamo visto 7 miliardi e mezzo, così. Però la cosa più importante per creare un ambiente di fiducia economica è sapere che non c'è un tetto, non ci saranno 20, 30 miliardi, 40 miliardi, che se poi finiscono in interi settori si chiedono dove vanno, ma ci sarà la forza dei whatever it takes, è il whatever, cioè tutto quello che sarà necessario. Sì, concordo. Un messaggio del genere da parte delle forze politiche dell'Europa, perché non solo dell'Italia, di sicuro porterebbe fiducia, perché al di là degli aiuti concreti è fondamentale che ci sia una visione positiva del futuro, perché altrimenti, nonostante aiuti, se io penso che finirà tutto, non farò niente per sfruttare questi aiuti. Quindi sicuro che un messaggio del genere, un whatever it takes, qualsiasi cosa da parte delle forze, dei governi europei, da parte dell'Europa, quello sarebbe, e dopo attuato ovviamente, ma quello sarebbe già un aiuto immediato per l'economia di tutta l'Europa. Allora, Doris, resti con noi perché ho metto la pubblicità e poi vorrei capire appunto altri elementi di scena. Voi però mi chiedono gli ascoltatori, concretamente in questo momento, oltre che internamente, state lavorando con la città di Milano? Avete fatto qualche iniziativa? Ci state pensando? Perché qua bisogna chiamare a chiamata, scusatemi, anche i soggetti economici di questo paese, gli italiani che vadano in vacanza in Italia. Adesso ci diceva giustamente Vicky Gitto, una campagna di comunicazione che preveda i grandi testimoni dell'Italia, dagli attori, ai calciatori, dagli scienziati, agli artisti, a raccontare questo paese quando sarà finita adesso questa emergenza. Poi nel concreto però c'è un tema anche di aiuti, no? Certo, noi abbiamo deciso ieri appunto di donare 100.000 euro a reparti di infettivologia e rianimazione dell'ospedale Sacco di Milano. Okay. In più abbiamo aperto anche un conto corrente per chi volesse fare delle donazioni a favore della bioemergenza e il reparto di virologia sempre dell'ospedale Sacco di Milano. E ce l'ha qui il conto corrente? Allora, vabbè, la facciamo così. Mentre lei cerca il conto corrente, sì, io vado in meteo. Ce l'ho qui. E ce lo dica. È lungo perché gli IBAN purtroppo sono lunghi. Ops, no. Allora facciamo così, siccome l'IBAN è difficilissimo. È lungo. Lo mettiamo sul sito del programma. Esatto. Adesso faccio fare andando sul sito di Banca Mediolanum lo si trova. E se lo mettete anche nel sito, non lo mettiamo perché ci mancherebbe. Allora, c'è un ascoltatore che mi dice, dove cavolo è? Lei mi sta deludendo. Vabbè, non lo trovo più. Non ho capito cosa non le vada nell'idea. Qualcuno dice sovranista, non ha capito una mazza su cos'è il sovranismo, ma che cosa non le vada nell'idea di comprare, viaggiare, spendere in Italia quest'estate. Veramente mi sfugge. Vada in Francia, che le devo dire? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Veda Parigi. Vada anche Napoli. Focus Economia. minuti. Allora, qualche risposta e poi l'ultima domanda a Massimo Doris. Allora, guardi, io non è che posso, non mi sembra che sia il momento di fare tante polemiche. Lo dico a Paolo da Monza, io voglio andare a Parigi, hai capito? Io vado dove cavolo. Ma va dove cavolo vuoi, Paolo? Ma va a Parigi. Ma chi se ne. Non mica sto dicendo che uno non possa andare all'estero. Così come chi mi dice: ma guardi, che se tutti facessero così, crollerebbe il nostro turismo. Sì, ma abbia pazienza. Ci rendiamo conto della situazione, no? Cioè qua ci sono i voli vuoti, le compagnie aeree che riducono i voli, le prenotazioni che sono saltate in tutti i prossimi mesi, parlate con un albergo, si va da almeno 80 almeno 100%. Non si ha nessuna visibilità su giugno, poi voglio dire, se a giugno ci sarà l'invasione degli stranieri in senso positivo, tedeschi, francesi, americani, io sono contentissimo, magari non si troverà più una stanza, i prezzi saranno tornati su, allora smetteremo di dire questo, però siccome non mi sembra che lo scenario butti in quella direzione, intanto prenotiamo in Italia, ok? E poi qualcun altro mi dice: ma i prezzi devono abbassarsi. Guardi che i prezzi si abbassano comunque se non ci sono stanze, se le stanze sono vuote. Poi se i prezzi saranno alti vuol dire che le stanze sono piene, saremo tutti quanti contenti. Ah, ultima cosa, adesso non ti piace più l'Europa? No, guardate che quello che stiamo dicendo da giorni è che qui c'è bisogno di più Europa, e anche qui non voglio fare un favore a nessun partito, perché se, come diceva prima anche Doris, il piano non è europeo, cosa volete che facciamo noi con 10-20 miliardi anche di scostamento dal deficit? Deve essere un piano, quello che sono chiamato il piano Marshall, quello che Boccia ha chiamato il whatever it takes, di carattere europeo. A questo proposito, Doris, per concludere invece sui provvedimenti interni che il governo sta predisponendo, c'è la moratoria sui prestiti, cioè che riguarda il mondo bancario. Ecco lì come dovrebbe essere fatta, e soprattutto è immaginabile che le banche possano reggere eventuali e probabili nuove sofferenze, perché le imprese che adesso non vendono, poi i prestiti non riescono a ripagarteli, o anche qui è necessaria un'operazione di carattere straordinario? Allora, è necessaria un'operazione congiunta, quindi le banche possono fare la loro parte, ma da sole non possono certo risolvere il problema di una crisi economica importante. Questa iniziativa della moratoria sui prestiti sarebbe importante, perché ad oggi ho visto che molte banche, anche noi dalla nostra parte, permettiamo ai clienti delle zone rosse, diciamo così, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui, eccetera. Ma qui ci sono attività che non sono in zone rosse, ma sono colpite ugualmente, perché non c'è, ad esempio, il turismo o piuttosto che ristoranti, eccetera. Ad oggi, se un cliente, che sia azienda, che sia privato, salta di 3 mesi la rata, quel credito deve essere riclassificato come credito problematico, con conseguente poi accantonamenti e quindi influenza sul conto economico della banca, eccetera. Ecco che in una situazione del genere, rivedere per un tempo, ovviamente non per sempre, queste regole per permettere più flessibilità aiuterebbe sicuramente, ma ripeto, deve essere un qualcosa di congiunto, sistema finanziario e sistema economico governativo. Anche regolato dalla BCE, perché se no poi diventiamo noi con le banche fuori regola. Deve essere, perché queste sono normative europee, per cui devono essere cambiate a livello europeo. Allora, grazie anche a Massimo Doris. Lei resterà in Italia quest'estate? Certo. Oh, almeno uno in più ne abbiamo trovato, siamo in due. Mi dicono che Milan non voglia restare in Italia. No, ma in Milan gli facciamo cambiare idea domani, dai. In maniera democratica, non è che lo minaccio, Alessandro, però vedrai che cambierà idea anche lui. Grazie Massimo Doris. Andiamo adesso non sui mercati finanziari, voglio restare sul tema, ma trattando altri settori industriali, perché continuiamo a monitorare tutti i vari settori produttivi e come stanno fronteggiando, o meglio, i danni che stanno ricevendo da questa crisi. Allora, i settori, continuano i nostri colleghi raccogliere testimonianze di altri settori produttivi. Allora, partiamo dal Made in Italy agroalimentare. C'è il problema non solo di chi fa sciacallaggio, c'è il problema anche forte, come ci raccontavano molti ascoltatori, sorrido perché un ascoltatore mi ha detto: dimmi dove vai in vacanza così evito quella località. Eh no, lo saprà all'ultimo, magari mi becca lì. Allora, dicevo, il problema del settore agroalimentare non è solo lo sciacallaggio di alcuni soggetti, alcuni paesi, è che gli autotrasportatori non vogliono venire in Italia a caricare le merci perché hanno paura non solo del virus, ma di restare bloccati dalle quarantene che molti paesi hanno messo. La Coldiretti ha lanciato questo allarme, e lo ha fatto ieri. Il Premier Conte ha incontrato tutte le categorie produttive e i sindacati in 3 diversi tavoli. La Coldiretti ha partecipato al secondo tavolo e, come ha ricordato Ettore Prandini, ha intervistato la nostra Anna Marino. Prandini, che è presidente della Coldiretti, ha anche ricordato che comunque c'è anche hanno realizzato un sondaggio secondo cui per il 77% dei cittadini e delle imprese la risposta del governo è stata adeguata, ma il 70% delle imprese agricole è fortemente preoccupato per il futuro. Abbiamo chiesto al governo una forte campagna di promozione per quanto riguarda il Made in Italy, per quanto riguarda l'agroalimentare, per quanto riguarda la presenza delle nostre imprese su tutti i mercati a livello mondiale, nella partecipazione di fiere che dovranno essere fatte con costi appunto sostenuti anche dalle nostre istituzioni. Ma sotto questo punto di vista abbiamo chiesto anche al governo di non limitarsi a chiedere di sforare il patto di sostenibilità, perché il problema del coronavirus non è un problema italiano, è un problema che oggi riguarda l'intera Europa, ed è l'Europa che deve rispondere ponendo delle risorse adeguate rispetto a quelli che sono i bisogni delle imprese e i danni che queste stanno subendo, ad esempio con l'emissione di Eurobond. Secondo appunto un vostro sondaggio, il 77% pensa che la risposta del governo sia adeguata, è così? Noi abbiamo fatto un sondaggio nelle zone rosse e anche, diciamo, quelle gialle, dove parzialmente viene limitata, diciamo così, la movimentazione, c'è comunque grande attenzione su più di 2500 imprese, e queste ci dicono che i primi provvedimenti annunciati sono comunque di soddisfazione. È chiaro che molto bisogna fare ancora, c'è tutto un piano che dovrà essere presentato anche rispetto alla logistica e alle infrastrutture. La preoccupazione invece riguarda diciamo una percentuale equivalente, 70% delle imprese agricole è preoccupato. Quali sono le stime, le ricadute e le perdite finora? In particolar modo sui prodotti deperibili, quindi in particolar modo l'ortofrutta, in particolar modo il lattiero caseario sulla parte fresca, le carni, che stanno avendo ovviamente un forte rallentamento per quanto riguarda il consumo di questi generi di prodotti, e purtroppo anche la strumentalizzazione che alcuni paesi hanno fatto del cibo di qualità italiano collegato al coronavirus rischia di farci perdere per la prima volta parte delle esportazioni rispetto agli ultimi anni, dove avevamo dei dati che erano sistematicamente in crescita. C'è un SOS da lanciare per l'Export Italia e soprattutto i consumi interni, magari un appello a utilizzare prodotti italiani? Abbiamo lanciato una campagna per quanto riguarda consumiamo il cibo italiano, mangiamo prodotti made in Italy, rivolta proprio ai cittadini e consumatori italiani. È chiaro che noi vorremmo allargare questa campagna di comunicazione a livello mondiale, perché solo in questo modo noi potremo recuperare quello che oggi parzialmente stiamo perdendo. Allora, così Ettore Prandini al microfono della nostra Anna Marino, e poi il settore alberghiero, qua continuiamo a fare un bollettino di guerra, che poi guardate, turismo vuol dire, qualcuno dice con quello che hanno guadagnato i prezzi degli alberghi, abbiamo fatto decine di puntate chiedendo al settore alberghiero di avere anche, di cambiare molte cose, però qui è inutile fare la guerra, ma loro hanno guadagnato nel passato. Il settore turismo vuol dire sì alberghi, vuol dire ristoranti, vuol dire il cibo che viene consumato nei ristoranti anche dagli stranieri, che mi sembra non stiano facendo a gara per arrivare in Italia, cibo italiano di solito, vuol dire i tassisti, vuol dire l'auto a noleggio, vuol dire tutti quelli che lavorano nei servizi accessori del turismo, vuol dire le biglietterie dei musei, vuol dire le biglietterie dei luoghi archeologici, dei traghetti, oltre che degli aerei, dei treni, ma ci rendiamo conto? Adesso vediamo sulla Germania, molti mi dicono guardate che il paziente zero europeo di nazionalità tedesca, la Germania ha occultato tutto. Sì, è giunta la notizia che dalla Germania potrebbe esservi stato un caso, allora devo ridirla perché sennò qua... Allora, il coronavirus SARS-CoV-2 è entrato in Europa più volte e il primo focolaio potrebbe essere quello isolato in gennaio a Monaco di Baviera. Lo indica la mappa genetica pubblicata sul sito Nextstrain, fondato e diretto dal gruppo guidato da Trevor Bedford e Fred Hutchinson, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. La mappa, che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, indica che il focolaio tedesco potrebbe aver alimentato silenziosamente la catena di contagio al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia. Che poi resta la domanda: come mai la Germania, però, se lì è entrato il focolaio europeo, ha solo 349 casi positivi? Come li sta cercando? Dicevo, gli alberghi. Allora, a Milano, dove si tocca con mano tutto, ahimè, e in maniera più drammatica rispetto a qualunque altra città, e chiaramente oltre agli 11 comuni interessati d'Italia, allora, la perdita calcolata da Federalberghi è di 3 milioni al giorno, e sono le proposte che sono arrivate, tra l'altro alcuni direttori di alberghi chiedono l'annullamento della tassa di soggiorno fino al 2021 per gli stranieri, ma insomma sentiamo queste proposte avanzate dal presidente di Federalberghi Milano, Monza, Brianza e Lodi, Maurizio Naro, sempre al microfono della nostra Anna Marino. Come si può immaginare, in questo momento stiamo soffrendo tantissimo. L'occupazione è ormai stabilizzata tra il 5 e il 10%, abbiamo mediamente 5-6 camere occupate, tutte singole, perché comunque non ci sono turisti, quindi non sono doppia occupazione, e quindi spesso girano in albergo più dipendenti dei turisti presenti. Quanto si calcola come perdita giornaliera? Noi abbiamo fatto un calcolo che mediamente Milano durante la settimana lavora all'85%, tenendo conto che sono 35.000 le camere d'albergo e adesso lavoriamo sotto il 10%, mediamente possiamo considerare un 25.000 camere non vendute al giorno. Queste 25.000 camere per 130 euro, che è il costo medio di una camera su Milano, si arriva facilmente a 3 rotti milioni di sole camere al giorno che si stanno perdendo come ricavi. Quali sono le misure che chiedete? Un'azione di rilancio promozionale nel futuro. A breve l'aiuto per la sopravvivenza, quindi per gestire la mancanza di liquidità immediata che stiamo vivendo. Differimento di uscite fiscali o pagamento di tasse locali. Comunque avete chiuso anche parti degli alberghi? Sì, sì, a Milano io credo che già 5-6.000 camere siano chiuse. E quanti alberghi saranno chiusi? Potrebbe esserci già un 30-40 alberghi e si sono ridotti all'osso i servizi, per cui magari spostando la ristorazione nell'area bar, nell'area della hall, proprio per dare un po' di vitalità. Allora, io non riesco veramente a capire alcuni ascoltatori che dicono: ma con tutto quello che ha guadagnato il mondo degli albergatori non riesco a essere solidale con loro. Allora, se non vuole essere solidale con il proprietario dell'albergo, magari può essere solidale con la donna che fa le pulizie, con il cameriere che lavora lì, con chi lavora alla reception, con il tassista che... Ieri ho preso un taxi a Milano, mi ha detto che in una settimana ha avuto una chiamata da un cliente d'albergo, una. Allora magari solidare con quelli, è inutile fare la guerra tra poveri. Qualcun altro mi dice: basta vittimismo e nazionalismo. Guarda, io non sto facendo nessun vittimismo, mi girano fortemente gli zebedei quando vedo atteggiamenti tipo quello francese, quello greco sul parmigiano, quello rumeno sui controlli sanitari dalla Romania, o anche la CNN che tira fuori cavolate mandando oggi in un grafico tutte le frecce di contagio che partono dall'Italia. Io chiedo se hanno roba buona la CNN, ogni tanto ce la passassero. Ma nessuno sta facendo vittimismo. L'idea di fare, e domani vedrete che saremo ancora più seri, le vacanze in Italia è tutto tranne che vittimismo. Siete di reagire, prima o poi sto virus finirà, come tutte le cose, no? E andremo a dare un bel segnale al mondo. Poi, se a forza di vedere gli italiani in vacanza in Italia anche gli stranieri si convinceranno a tornare, meglio, ben venga, meglio ancora. Allora, sempre sui settori, però dopo il traffico, il settore dell'autotrasporto, della logistica, vorrei fare il doppio fronte, sia della logistica che dell'autotrasporto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Paolo da Monza, ho capito che lei va all'estero in vacanza, basta, andiamo avanti, vada all'estero in vacanza, ma vada a Parigi, vada anche in... va bene, non voglio. Il settore autotrasporti, sì, logistica, perché la zona rossa e la zona gialla hanno colpito, come dicevamo anche ieri, una delle, dei cuori della, forse il cuore della logistica italiana, la zona, diciamo, attorno a Piacenza. E non solo, faccio notare che la logistica in Italia vuol dire 100.000 imprese, 1,5 milioni di addetti, 85 miliardi di fatturato, il 10% dell'economia italiana, praticamente come il turismo. E anche il settore chiede al governo di misure urgenti per non compromettere l'operatività dei poli logistici, lo ha spiegato il presidente di Assologistica, Andrea Gentile, sempre la nostra Anna Marino, che sta facendo il giro dei vari settori produttivi. La logistica è uno dei settori dell'economia italiana maggiormente colpiti da questa epidemia e soprattutto gli effetti negativi si riscontreranno e si amplieranno per noi nei prossimi mesi. Questo perché c'è chiaramente un allarmismo nella comunità non solo italiana ma anche estera su come il contagio può avvenire e quindi questo si ripercuote anche sulle merci. Quali sarebbero provvedimenti urgenti da prendere subito? Provvedimenti da parte del Ministero della Salute riguardo l'esclusione del contagio del coronavirus tramite le merci. Un'azione da parte del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero degli Affari Esteri per quanto riguarda la piena capacità operativa di porti e aeroporti e tutta una serie di provvedimenti a supporto che abbiamo chiesto al Ministro De Micheli per tutto il settore. Per quanto riguarda tutti i terminal portuali che hanno una concessione demaniale, l'annullamento dell'aumento dell'IRES prevista nella legge di bilancio 2020. Ci sono dei problemi specifici nelle zone rosse? Le aziende della logistica che sono inserite nelle zone rosse non riescono a operare e a ricevere merce o consegnare merce per i blocchi che ci sono, che si attivino subito tutte le amministrazioni che devono rilasciare i vari permessi. Trasporti, porti avranno anche meno traffico. Un calo che è previsto tra un 15 e un 30% in meno, quindi si ha paura anche di un container. Pensa un po', si ha paura anche di un container. Allora, mi state mandando molti scontrini di alberghi. Sì, so benissimo che Venezia, guardate, non ditemi che non tengo conto di Venezia, sono mezzo veneziano. Venezia si è beccata prima l'acqua alta e adesso pure il coronavirus. E mi ha mandato un ascoltatore adesso uno scontrino 4 stelle su Pilo di Venezia, 45 euro. Ma a dimostrazione che appunto non mi sembra che gli albergatori stiano provando a fare i furbi in questo periodo, detto che c'erano solo 4 camere occupate. Sì, ma è quello che ho visto anch'io personalmente, modestamente, in tutti questi giorni e settimane in giro. Allora, l'altro fronte, il fronte del trasporto, che fa il paio chiaramente con la logistica, l'associazione dei trasporti, l'ASTRA, il presidente dell'ASTRA Angelo Gibelli ha raccontato che insomma c'è lui si trova nel momento nella zona gialla e anche quella è una realtà molto difficile. Chiede una task force organizzativa per coordinare gli interventi sul territorio nazionale. Il tema dei trasporti purtroppo va di pari passo con la situazione soprattutto nelle regioni del nord, a valle delle ordinanze e delle disposizioni che sono state concordate tra il Ministero della Salute e i governatori, ma la prima stima è addirittura superiore al 50% il calo del traffico. Quali provvedimenti avete chiesto immediati? Sicuramente un'unità di crisi che consenta in qualche modo allo Stato di compensare queste perdite, perché è evidente che c'è il rischio di una crisi di natura industriale senza precedenti. Avete già chiesto dei provvedimenti specifici e quali? Sono in corso, diciamo, delle richieste che riguardano sicuramente il tema degli ammortizzatori sociali per i dipendenti. Avete messo anche voi in conto dei piani di emergenza? C'è la fondata, diciamo, possibilità che gli enti regolatori, che sono le regioni, possano chiedere alle società di ridurre il numero delle corse. In alcune realtà, proprio a livello regionale, si sta già adottando da più di una settimana uno smart working forzato. Le dico che io vengo da una di quelle zone. Sono in zona gialla, ma lavoro in smart working continuamente. Se le zone rosse tengono, allora tiene la Lombardia, tiene il nord e il resto del paese potrà tirare un sospiro di sollievo. Allora, sì, vedo che molti stanno, come dicevo, non capisco come ti permetto di offendere i rumeni e i greci, sei patetico. No, guarda, è patetico chi ha minacciato di bloccare il grana padano perché era prodotto a Cremona, e mi riferisco alla Grecia, che, con cui siamo stati vicinissimi durante tutta quella, insomma, vicenda che riguardava l'umiliazione greca a opera della Germania, e la Romania, che ha ipotizzato di mettere in quarantena le merci italiane se prive di un certificato che, diciamo, che comprovasse l'assenza di virus. E giustamente si è mosso il nostro ministro degli esteri spiegando che le regole in Europa sono leggermente diverse. Allora, adesso andiamo sul GR24, poi le iniziative del governo, ripeto, provvisorie, tampone, e l'aumento del budget, diciamo 6 miliardi e 300 milioni a deficit, 1 miliardo in più non a deficit, quindi 7 miliardi e mezzo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Luna dopo luna scorre il tempo, il profumo diventa più intenso, il gusto più elegante, il colore più caldo. Ecco le 18 lune, l'arte del sapere aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro. Ehi, ma sei un alieno! E ti telefono cloud. Cosa dici? E ti telefono cloud. Ma amico, se hai un'esigenza cloud, vai su iridios.it. Lo sanno anche su Marte, che è proprio in Italia la soluzione cloud per le aziende più potente e sicura. Sto parlando di vCloud, la piattaforma Iridios basata su VMware e certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E ti telefona Iridios. Bravo, oppure vai su iridios.it. Prima la grande musica potevi solo riconoscerla. Ora finalmente ti parla davvero. Impronte Musica, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una collana di volumi inediti che ti farà entrare nell'universo musicale dei grandi compositori. Da Mozart a Wagner, da Verdi a Chopin, un racconto originale e coinvolgente, accompagnato da una playlist dedicata su Spotify. In edicola con Repubblica è il primo volume, Bach. Messaggio riservato agli iscritti Enasarco. Alle elezioni Enasarco vota la lista Fare Presto. Per un presidente agente di commercio. Per una pensione veramente garantita. Per far pagare i contributi ai giganti del web e dell'e-commerce. Alle elezioni Enasarco vota la lista Fare Presto. Altrimenti non ci sarà più nulla da fare. www.farepresto.it. Per la giornata della donna, vieni da Conad e aiutaci a sostenere i numerosi progetti dell'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Fino all'8 marzo scegli la nostra begonia a 3,90 €. Grazie a te, con un fiore, possiamo sostenere molte donne. Scopri di più su conad.it. Un ragazzino che riceve una lezione di umiltà da un giovane arbitro. Mi ha colpito prima cosa lo sguardo, perché lui mi ha guardato dritto negli occhi, l'avevo colpito. Il tizio che invidia l'amico diventato un cantante di successo, una signora che riscopre il sesso a 86 anni. La signora, per motivi anagrafici, avrebbe potuto essere mia madre. Storie di invidia, di gola, superbia, lussuria, ma anche di eccessi di velocità, di cattivo gusto e di oblio. Storie di vita che parlano di vecchi e nuovi vizi capitali. Questo è ciò che raccontiamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. Perché le linee d'ombra sono il confine tra ciò che sappiamo e non sappiamo del mondo, ma anche di noi stessi. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, devo dare qualche aggiornamento. Alcuni ricordavano già i nostri GR24. Qualcuno mi scrive sull'idea di fare trascorrere le vacanze quest'estate in Italia, negli alberghi, nelle strutture italiane. Allora un attimo, perché ho però c'è Borrelli, la protezione civile. 76, andiamo a 414 le persone dimesse e guarite. Abbiamo anche 41 persone decedute. Le 41 persone decedute sono 25 in Lombardia, 8 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria, 2 in Piemonte. La fascia di età, visto che qualche domanda era poi stata fatta e potrebbe essere fatta, è dai 66 anni ai 94 anni. Comunque il dato è, si tratta di persone fragili, per la maggior parte con diverse patologie. Questo per soltanto un'attività di trasparente comunicazione. Il dato dei positivi attualmente è di 3.296 in tutte le regioni, con un incremento di 590. Il dato più importante è l'incremento in Lombardia di 280 unità, siamo arrivati a 1.777 persone, pari al 54% del totale. In Emilia-Romagna abbiamo 142 persone in più, con un totale di 658 persone, pari al 20% del totale. In Veneto 35 persone in più, con un totale di 380 persone affette da coronavirus, l'11% del totale. Il dato complessivo vede ricoverati con sintomi 1790 persone, in isolamento domiciliare 1155 persone, in terapia intensiva 351 persone, pari al 10% della popolazione che è complessivamente affetta dal coronavirus. Non ci sono stati problemi, criticità nei nostri ospedali, anche quelli della Lombardia che sono particolarmente oberati di lavoro, ed è in atto quel piano di potenziamento delle strutture di terapie intensive e subintensive. È anche in atto un'attività di potenziamento delle attrezzature, come sapete, di acquisizioni che stiamo operando. Per quanto riguarda le percentuali, voglio dare ultimi due elementi. Il totale dei guariti è il 10,73% rispetto al totale delle persone che è stata complessivamente colpita da coronavirus, e i deceduti rappresentano il 3,84%. Allora, questa è la conferenza del punto, come ogni giorno alle 18, della Protezione Civile, quindi 3.296 malati e 148 i morti, però la buona notizia riguarda il numero dei guariti, sono 138 più di ieri, sono arrivati a 414. Poi Borrelli ricordava la distribuzione a livello nazionale, ma è molto chiaro, insomma, il 50% sono in Lombardia, il 20% in Emilia-Romagna, l'11% in Veneto. Sostanzialmente queste tre regioni fanno da sole l'81% di tutti i casi, e invece la proporzione resta abbastanza invariata rispetto a tutti quelli contagiati. Poco meno della metà sono a casa, nel senso che sono in auto quarantena perché non presentano sintomi, 1790 sono ricoverati e 350 sono in terapia intensiva, restano il 10% del totale sostanzialmente. Dunque, questo per quello che riguarda l'aggiornamento della Protezione Civile. Invece torniamo al tema delle risorse. 7 miliardi e mezzo la richiesta che è arrivata oggi di scostamento dei saldi del bilancio, 6 miliardi e 300 milioni è il maggior deficit, lo 0,35% del PIL. Questa è la decisione del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Conte che l'ha comunicato ufficialmente. Consiglio dei Ministri che ha adottato varie misure. In particolare abbiamo stanziato l'importo di 7 miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è soltanto sanitaria, è un'emergenza anche economica. Il Governo ha ritenuto di assumere questa iniziativa, che comporta anche un passaggio parlamentare, perché si tratta di uno scostamento rispetto a quelli che sono gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, quindi occorre anche l'approvazione da parte del Parlamento. Però abbiamo e riteniamo di dover assumere in un contesto così emergenziale misure straordinarie, misure urgenti. Siamo consapevoli della responsabilità che incombe su di noi. Allora, per quello che riguarda invece il prossimo decreto sul coronavirus, ha anticipato il ministro dell'economia Gualtieri che vi dovrebbero essere anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario, il tema che toccavamo prima con Massimo Doris. Sentiamo Gualtieri. Ci saranno misure che ci consentiranno di sostenere i redditi, salvaguardare l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali. L'obiettivo è quello che nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus. Ci saranno misure di sostegno alle aziende dei territori e dei settori, anche al di fuori dei territori più colpiti, che subiscono l'impatto sia delle misure di contenimento del virus sia delle sue conseguenze dirette e indirette sull'economia. Quarto, ci sarà una misura per sostenere con sistema di garanzie una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. Allora, professor Gustavo Piga, buonasera, insegna politica economica all'Università Roma Tor Vergata e editorialista Sole 24 Ore. Buonasera Piga. Buonasera, come sta? Bah, insomma, ho avuto momenti migliori. Senta, lei le vacanze le passerà in Italia? Le vacanze, quali vacanze? Nel senso che quelle le vacanze d'estate arrivano ad agosto. Io adesso purtroppo il mio orizzonte temporale è molto più a breve periodo, mi sto occupando di salvaguardare le sessioni di lezioni dei miei ragazzi. Abbiamo 3 mesi, adesso dobbiamo passare a modalità online, ma non bisogna assolutamente rinviare le lezioni e quindi ci dobbiamo organizzare in modo diverso, ma per continuare a dare servizi. Anche perché le dico che stanno scappando un sacco di ragazzi stranieri, stanno tornando nel loro paese e molti ragazzi stanno cancellando le loro domande per il prossimo anno. Questo, siccome noi facciamo export all'università, questo è uno dei tanti esempi di come questo shock colpisca una dimensione importantissima del brand Italia, del nostro paese, e quindi l'export stesso. Quindi dobbiamo mettere in piedi tutti gli accorgimenti possibili per far vedere che un prodotto di così alta qualità come l'università italiana rimane di alta qualità. Sì, ma qui torniamo a quanto abbiamo detto nei giorni scorsi: superata l'emergenza, e siamo ancora in piena emergenza, bisognerà partire con una campagna di comunicazione pazzesca e non una tantum ma continuativa per invertire l'immagine che si è creata nel nostro paese. Però io l'ho invitata Piga perché lei insomma, è un grande esperto di politiche economiche, e vorrei capire dopo il traffico cosa ne pensa delle risorse temporanee, cioè provvisorie, scusatemi perché non sono certo delle definitive, tirate fuori dal governo, e se ritiene che veramente l'operazione debba essere anche di carattere europeo, modello Draghi, cioè whatever it takes, e dare agli operatori economici, ai cittadini, in questo caso non è stata di banche, e dare il messaggio: non vi preoccupate, ci sarà un plafond di risorse che coprirà tutto, non sarà limitato, non sarà una corsa a chi si accapara le risorse, che fu esattamente il messaggio forte di Draghi: farò qualunque cosa e credetemi sarà abbastanza, e quindi non vi preoccupate, non c'è da speculare sull'euro. Ecco, in questo caso, se il plafond non debba essere nemmeno definito, perché non siamo in grado di definirlo. La risposta dopo il traffico: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Oh, professor Piga, al di là delle iniziative annunciate dal governo, poi domani dovrebbe esserci il decreto e quindi soldi per le agenzie di turismo, non solo gli operatori turistici, promozione per l'immagine dell'Italia, l'idea di un contributo per gli stipendi alle aziende in crisi, il modello Genova per far partire velocemente queste benedette opere pubbliche, e anche poi i paletti per le imprese. Qualcuno mi dice: ma andiamo a aiutare un settore che ha fatto nero come il turismo? Ma guardi che se uno ha fatto nero, siccome dovrà dimostrare che ha un calo almeno del 25% del fatturato, farà fede alla dichiarazione dell'anno prima. È whatever it takes, come diceva anche il presidente Confindustria Boccia, quello che serve, cioè un piano massiccio che non dia neanche un limite a quanti soldi siamo disposti a mettere sul tappeto, e deve essere per forza un piano europeo, Piga. Quindi un whatever it takes, non della politica monetaria, però della politica fiscale. No, della politica, cioè di investimenti, poter spendere, sì. Eurobond, sì. Chiamiamoli come vogliate, chiamateli anche Ugo, ma insomma, soldi per fare investimenti, modello Roosevelt Tennessee Valley Authority Act, così facciamo anche un riferimento. Sì, assolutamente sì, quindi ci sono due questioni. Una, la questione di date certo ammontare di risorse, dove le mettiamo. Io purtroppo continuo a non sentire a sufficienza questa enfasi sugli investimenti pubblici, per cui poi alla fine il grande cannone che genera occupazione e recupero d'accordo di prodotto interno lordo sono gli investimenti pubblici. La parola investimenti pubblici, poi alla fine sento un sacco di parole di trasferimenti, moratorie qui e lì, ma questi non sono le componenti che a fronte di una crisi di questa dimensione immensa possono essere quelli vincenti. E poi c'è la grande questione della quantità. Allora io le devo dire che sulla grande questione della quantità qui si dice dobbiamo mettere, una espressione divertente che ho sentito il sottosegretario di Stato Fraccaro, mettiamo in quarantena il patto di stabilità, che è un'espressione divertente ma sbagliata, perché chi mette in quarantena è chi vuoi salvare. Il patto di stabilità in questo senso sta agendo invece da virus, da freno all'economia, è quello che dobbiamo combattere, il patto di stabilità, tant'è che ci sono due questioni qui. Passare dal 2,2 al 2,6 vuol dire da un lato avere come deficit con manovra di 0,4, vuol dire ancora avere come un'idea un mondo dove conta il freno del 3%, prima cosa. Secondo poi chiamare le circostanze eccezionali. Le circostanze eccezionali le usi, tipico 0,2, 0,3, 0,4 di PIL, quando c'è un terremoto per andare incontro alle esigenze localizzate di un territorio. Ma questo è uno shock macroeconomico aggregato, non abbiamo mai avuto dei numeri di recessione stimata così alta, quindi no, è in un tempo è così veloce. È vero che è un evento eccezionale, ma invocare formalmente le circostanze eccezionali è darsi una martellata addosso, e quindi la questione diventa di nuovo qual è la dimensione giusta. Allora io, se prendo un moltiplicatore normale degli investimenti pubblici, sempre sperando che si faccia investimenti pubblici, mettiamolo piccolo di uno, c'ho una recessione del meno 1%, mi salta il paese socialmente e politicamente contro l'Europa se non lo riporto almeno allo 0,5, ho bisogno di 1,5% di prodotto interno lordo in più. Sono 40 miliardi più o meno, no? Un po' di meno, ma insomma sono 25-30 miliardi. Allora, se questo è il piano, lo chiamiamo europeo, lo chiamiamo italiano, allora vuol dire che abbiamo compreso la drammaticità di quello che sta colpendo, uno, le nostre catene di fornitura, soprattutto per le piccole imprese, due, la questione che dicevamo prima del brand e della reputazione delle nostre merci. Questi sono due shock sulle catene di fornitura e sul brand pazzeschi, perché anche nel momento in cui dovesse essere sconfitto il virus, se intanto il mondo si è riorganizzato via dall'Italia, abbandonando le imprese italiane che vendono o che sono fornitori, noi non le recuperiamo più. E quindi bisogna agire ora, immediatamente, con cifre, ma molto molto più significative. Allora, mi dica una cosa però, Piga, questi soldi, perché alcune iniziative le abbiamo dette, le imprese verrebbero aiutate con un calo del fatturato pari al 25%, superiore rispetto all'anno scorso, i contributi per gli stipendi, cassa integrazione in deroga, questi sono... E il mondo del turismo che ieri ci diceva: attenzione, noi abbiamo bisogno di circolante, di cassa, di contante per arrivare fino a giugno, perché qua non sappiamo come traghettare l'industria del turismo da qua a giugno, ammesso che a giugno torneremo tutti quanti ad andare in albergo e arriveranno le prenotazioni. Ma poi in questi soldi lei immagina anche i soldi per le infrastrutture o sono a parte quelli? E come li userebbe? Le ripeto, io immagino 25 miliardi tutti gli investimenti pubblici finanziati in deficit. Ora mi dirà dove li troviamo, quelli miei no, non dove li troviamo, come li userebbe, dove li troviamo non è il mio problema. Scusi, beh, io la mia fissazione è una sola, io purtroppo quando sento grandi ponti, grandi infrastrutture, io qui chi sta per morire per la seconda volta di seguito, o per la quarta, perché è la quarta recessione che ci becchiamo dal 2007, e che spariscono per sempre, e in questo caso a maggior ragione, sono le piccole imprese. Si ricordi che noi abbiamo fatto un solo progetto col governo, sembra giallo-verde, di piccoli appalti, una cosa ridicola, 400 milioni di euro, sono finiti in 30 secondi. La Spagna, pochi anni prima, aveva fatto un simile progetto di piccoli appalti di 10 miliardi di euro. Allora chi mi dice, ma non esistono, dove si fanno i progetti di piccoli appalti, dove si fanno? Ma io gli dico, lei, se lei mi dà 50 milioni, io comincio a fare mi rifaccio tutta la mia università, che ne ha un bisogno come qualsiasi. Quindi non solo i grandi progetti, io penso che servano anche i grandi progetti, ma soprattutto un piano di appalti di micro progetti, sì, micro vuol dire 10, 20, 50 milioni di euro, per far ripartire l'edilizia locale, se ho ben capito. Assolutamente sì, senza il minimo dubbio. Fattibile, assolutamente sì. Perché quando poi abbiamo dato i 400 milioni sono finiti in un attimo e quegli appalti si sono fatti, a dimostrazione che non c'è, e poi ci sono meno regole per gli appalti più piccoli, quindi vanno più veloci. Sì, e aggiungo, io hanno una ricaduta immediata sul territorio, perché sono piccole ditte, sì, che insomma di solito vivono o operano lì o lì vicino nel territorio. Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, questa mattina ospite di Maria Latella e Simone Spezzi, dice: subito lo sblocco di 130 miliardi di infrastrutture. Ci sono segnali chiari, terribili, di rallentamento, di crisi di impresa in tutti i settori. Non c'è un settore che non è colpito da questa situazione. Quindi bisogna mettere in campo risorse ed azioni. Io credo che il governo sia determinato rispetto a questo, abbiamo trovato un ascolto assolutamente positivo su come sostenere il reddito di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici coinvolte nella crisi o nelle possibili crisi. Ecco, oggi è proprio il momento di sbloccare quei 130 miliardi bloccati lì, fermi lì da anni in modo colpevole, di infrastrutture che possiamo invece mettere in campo. Allora Pica, la Furlan dice 130 miliardi, le dice basterebbe partire con 30 miliardi e una buona parte di questi nei piccoli appalti. Questo però al netto di tutti gli interventi che dovremmo fare sulle singole categorie, non tutti per fortuna nello stesso modo, ma tutti siamo colpiti, ma non tutti con la stessa intensità. Turismo, dicevo, mondo delle compagnie aeree e logistica in questo momento stanno soffrendo tantissimo, Piga. Sì, ma la grande ipocrisia, c'è anche un altro grande politico, grande tra virgolette, anche bravo, insomma, che parla di questi 130 miliardi costantemente. La grande ipocrisia è che quando tu sblocchi i cantieri per 130 miliardi, finalmente diventano deficit, perché entrano nel deficit, certo, solo quando finalmente si pagano. Allora, siccome ce ne abbiamo 130 pronti, ma l'Europa non ne autorizza più di quanto? 0,2-0,3 di PIL, o si prende il toro per le corna e si dice: cara signora Europa, la situazione è tale che io adesso ho bisogno di sforare al 4,5% del deficit, e l'unico modo per farlo è avere l'ok dell'Europa, perché a quel punto i mercati, altro che spread che salgono, se tu fai un piano a 4,5% di deficit di infrastrutture approvato dalla Merkel, che va in conferenza stampa, approvato dall'Europa, anche dalla Merkel, gli spread crollano a quel punto dalla fiducia che ottengono. Se no è tutta ipocrisia parlare di 130 sì, miliardi. Sì, e lì mi dica solo una battuta, l'ok della Merkel, che poi dell'Europa, arriverà solo quando la situazione sarà difficilissima anche in Germania e in Francia, o c'è la possibilità, secondo lei, di avere un po' più di lungimiranza rispetto al passato, anche da parte tedesca? Sì o no? Guardi, è l'ultimo treno, veramente. Se con questa crisi di questo tipo, che supponiamo anche che colpisca soltanto l'Italia, non ci si rende conto che questa è un'occasione incredibile per l'Europa per fare un salto in avanti nel suo senso di solidarietà e di vita comune. Se non lo sfruttiamo adesso, già dopo aver perso la chance del 2008 e la chance del 2011, questo è un momento che regala il paese ai sovranismi e finisce il progetto europeo sicuramente. Quindi io non posso immaginare che non abbiamo dei leader che non capiscono la posta. Sì, non in Italia in questo caso, ma a livello europeo. Grazie anche al professor Gustavo Piga, veramente è tutto per questa puntata di Focus economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto viva l'Italia.